indipendentemente da alcuni giudizi della partita, quello che devo fare è non cercare alibi. Sono arrabbiato, una partita del genere portare a casa 0 punti e ci deve far rabbia, però penso che ci debba essere un po' di rispetto a prescindere il colore della maglia e in tutto. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Intanto la vittoria è meritata, al di là che abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma, però noi abbiamo impostato la partita, l'abbiamo voluta, abbiamo creato tante occasioni per fare gol e alla fine l'abbiamo meritata. Prima di venire qui e magari dire qualche baggianata, mi sono rivisto un po' tutte le situazioni. Credo che Stellini abbia visto una partita totalmente diversa da quello che c'è stato sul campo, però hanno vinto loro, quindi merito a loro. Io penso che noi più di questo non possiamo fare. Bisogna recuperare energie e pensare alla partita con l'Atalanta, però l'Atalanta non è una sorpresa. L'Atalanta è da un po' di anni che fa dei buoni campionati, anzi ci andiamo a giocare una partita a Bergamo molto molto importante, però non so se basterà. Era il nostro tallone d'Achille il fatto di non essere mai riusciti a vincere contro una squadra che ci stava davanti. Il fatto di aver battuto meritatamente l'avversario forte come la Roma ci deve dare fiducia e positività per il proseguo del campionato e per cercare di riportare il Milan in Europa. Il Milan è stato più freschi nel secondo tempo, la squadra con difficoltà a reagire. Non possiamo dimenticare che è la nostra seconda partita. Penso che abbiamo regalato il gol, abbiamo regalato la partita. Il Milan non ha creato praticamente nessuna situazione per fare gol. Lorenzo Nespoli oggi in assistenza, con Claudio Schiattone in redazione, Valeria Bernardi di Gianmarco Ferronati in regia. Pardo, attendiamo notizie da chi l'ha visto, lo stiamo cercando, però sono comunque in eccellente compagnia perché vedo Paolo Condò in questi giorni in TV su Sky molto più dei miei familiari. Ciao Paolo. Ciao Carlo. Ciao. Buongiorno a tutti. Senti, dentro a un weekend in tutto sommato di conferme ci sono alcuni spunti. Vabbè, l'unica che continua a spaccare il mondo è l'Atalanta. Il Napoli si è rimesso al centro del villaggio perché essenzialmente secondo me c'è più chiarezza da ogni punto di vista. La Juve mi sembra piatta, la Lazio è aggrappata con i denti alla classifica e l'Inter, forse questa è una notizia, spenta e fortunata. Cosa scegli dal mazzo? Diciamo, no, beh, sono tutte quante delle considerazioni che sulla scorta di 2 o 3 partite ci possono stare, però è ancora poco per individuare delle tendenze precise, se non il fatto che l'Atalanta sia un comando che va veramente a fare qualsiasi impresa in qualsiasi campo contro qualsiasi avversario, perché ormai ha questa capacità magica. Cioè, quello che ha fatto Muriel ieri, mamma mia, è una cosa, a parte che è stata una gioia per gli occhi vedere quei 2 tiri, quelle 2 conclusioni di Muriel, perché il suo calcio è di una pulizia artistica meravigliosa. Però questo fatto, l'Atalanta, si è parlato moltissimo, ha ragione, della rosa più lunga della Serie A, che è quella della Juventus. È chiaro che l'Atalanta comunque è un'altra squadra che è in grado di pescare sempre dalla panchina un giocatore che ti cambia qualche cosa, sì, dentro l'architettura complessiva della squadra e ti fa vincere la partita. Quindi l'Atalanta è veramente cioè, se tu vai a vedere i punti che ha perso in casa l'Atalanta, e gridano vendetta al cielo. Perché, no, di sicuro, avesse avuto alla ripresa quei 5-6 punti in più, eravamo lì a fare altri discorsi. Paolo. Eravamo lì a fare altri discorsi. Cioè, questo, adesso io non lo so, perché sai, comunque l'abitudine ti porta sempre a chiedere, per quelli che non sono le grandi tradizionali del nostro calcio, a chiedere una conferma anno dopo anno, anche quando le cose stanno andando molto bene ormai da tempo, come succede all'Atalanta. Cioè, hai sempre l'impressione che magari possano vendere un giocatore di troppo e che l'incanto possa spezzarsi. Questo per me era un anno, calcolando il cambio di pelle della Juventus e il fatto che le altre, cioè l'Inter, che era considerata la grande alternativa, ha perso anche lei dei punti per strada. Questo poteva essere l'anno dello scudetto dell'Atalanta. Sì, ma da grande lettore del calcio europeo, ieri sera sentivo il Club a Sky, i tuoi compari, insomma, dire che tutto sommato, nella stranezza più totale di un agosto di coppe con la partita secca, beh, qualche pensiero peccaminoso può anche venire a Bergamo. No, beh, insomma, io direi giustamente chi si qualifica, non soltanto quest'anno, chi si qualifica ai quarti di finale di Champions League ha il diritto a una fetta di torta, magari piccola, magari minima, magari proprio una slice, ma alla sua fetta di torta se l'è meritata dentro il pronostico. Che è chiaro che lì dentro avrai il Bayern, che avrà una fetta molto larga, l'Atalanta avrà una fetta più piccola, ma non è zero. No, non è zero, ma anche perché poi le altre non è che stiano facendo i numeri. In più quest'anno, la stranezza dovuta ovviamente all'emergenza farà sì che ci saranno molte condizioni irripetibili, e queste condizioni a una lettura, a perlomeno a una prima lettura, possono sembrare favorevoli. Ma certo, anche perché una squadra che ha la filosofia della... Anche perché se allarghi il campo sulle big d'Europa, il Barcellona mi sembra ridotto ai minimi termini, se vuoi ne parliamo. Io un po' di speranza sul fatto di andare a Lisbona con tre squadre ce l'ho. Sì, sì, compresa la terza, quella che dicevo prima si è rimessa al centro del villaggio, perché mi sembra ci sia una chiarezza che in precedenza non c'era, nei ruoli, quasi nelle opinioni, nelle vedute. Mi sembra sia stata ritrovata proprio questo, gerarchia. Io faccio soltanto un ragionamento sul Napoli. Qualche mese fa, siamo nel momento in cui viene esonerato Ancelotti e sembra il decreto di una stagione fallimentare, ecco, in quel momento sono tutti che se ne vogliono andare da Napoli. Sì. C'è Fabian Ruiz che si sa già che è promesso a Real Madrid o a Barcellona, Caglion, Mertens e quelle di Milik, Allan Koulibaly, l'est è lunga. Allan Koulibaly, adesso se tu vai a vedere sono tutti che vogliono restare. Mertens ha firmato, Caglion forse firma anche lui, ha prolungato comunque fino ad agosto, e la postura, diciamo, psicologica di Caglion è: io voglio restare, fatemi un'offerta che mi permetta di accettare. Lo stesso Milik è diventato aperturista, e quindi tutti non potranno restare, perché il Napoli ha già fatto il mercato, ha preso uomini nuovi in gennaio, altri sono già bloccati per la prossima estate, quindi qualcuno dovrà andare via. Però sai, quando da un ambiente improvvisamente nessuno più vuole andare via, ti vai a chiedere cosa è cambiato. C'è questo nuovo allenatore che evidentemente ha conquistato tutti. Bravo. Senti, invece sull'Inter, vista ieri sera, mi vengono in mente dei paragoni a luci rosse inopportuni a quest'ora, però nel complesso credo di aver preso un abbaglio, perché mi sembra che l'Inter, che io vedevo tornare in corsa per vari motivi, comprese caratteristiche del suo allenatore, è durata poco, mi pare. Beh, allora, intanto ieri sera comunque ha vinto. Sì. Ieri sera comunque ha vinto, quindi è rimasta attaccata al vagone di coda. Non credo che possa più ragionevolmente lottare per lo scudetto, però certamente può concludere il campionato in una maniera molto più degna rispetto agli spareggi all'ultima partita, così delle stagioni precedenti. Ecco, questo sicuramente. Dopodiché bisogna vedere se non bisogna vedere niente, perché qualsiasi cosa accada non è che tu cambi Conte. Sì, no, chiaro. È ovvio che Conte sarà l'allenatore anche per il prossimo anno, che suo è stato un lavoro appena avviato. Però a quel punto tu potrai giudicare se con i giocatori in più che ha ottenuto nel corso di questa stagione puoi essere soddisfatto o meno di quello che ti ha portato a questo allenatore. Secondo me il concetto base è quello di considerare il suo un work in progress. Certo, non ha dato in questa stagione tutti i frutti che uno magari si aspettava, ma per me è comunque una posa, dico della prima perché quella prima c'era già, però una posa di pietre importanti per il futuro, assolutamente. Intanto arriva Hakimi, che è un signor giocatore. È un signor giocatore. Tra l'altro Hakimi, se tu lo unisci a De Ligt, a Eriksen, che io non mi rassegno ovviamente all'Eriksen di ieri sera e continuo a pensare che sfonderà, a Arthur, ti segnala che il campionato italiano, perlomeno nelle sue corazzate, sta tornando a essere un campionato molto appetibile, sì. Perché questo tipo di giocatori fino a un paio d'anni fa ci schifavano, la verità è questa. Cioè, ma... se ne andavano tutti in Premier. Ora sicuramente la questione dell'incentivo fiscale della nostra legge Beckham qualche cosa fa naturalmente in questo, però comunque tra la Juventus da una parte e Swing dall'altra, ecco, evidentemente abbiamo nuovamente un po' di fascino, sì, un po' di appeal. A questi ti aggiungo un giocatore fenomenale che è arrivato quest'anno, che è Theo Hernandez, e che è contento di restare al Milan, non pensa minimamente di andarsene, e un'altra ottima notizia per il nostro calcio. Sì. Da noti invece oggi, e arriviamo su quanto è scritto sulla Gazzetta dello Sport, si parte dalla considerazione di cronaca Juventus piatta, a me non ha fatto alcuna impressione con il Lecce, di nuovo nonostante il 4-0, poi vai a vedere la bellezza del gol di Dybala, vai a vedere quello che vuoi, però non mi ha fatto alcuna impressione, anche se è stata una settimana in cui ha guadagnato vantaggio. Manca un tassello al mosaico così incoraggiante che descrivi tu, che è quello dei grandi allenatori. E poi arriviamo a questo titolo che mi ha fatto strabuzzare gli occhi e mi ha convinto a disturbarti: la Juve di Sarri nascerà quando Cristiano Ronaldo andrà via. Allora, naturalmente il titolo è un acchiappa cliché, acchiappa hater anche. ovviamente il discorso complessivo che faccio nel pezzo, possiamo riassumere rapidamente, è che Sarri appartiene a un gruppo di allenatori che di filosofia non si adeguano a ciò che trovano, ma vogliono costruire un loro universo calcistico, un loro mondo, come ha fatto l'esempio di Guardiola, ma anche dello stesso Klopp, anche se stiamo parlando di un calcio diverso, però comunque Klopp arriva e nel giro di 4 anni tutti i giocatori del suo primo Liverpool sono cambiati, ha preso tutto giocatori nuovi, tra l'altro la sua grandezza sta nel fatto che non li ha presi dal Real Madrid, dal Barcellona, dalla Juventus, li ha presi dall'Al City, li ha presi i due probabilmente più forti, Van Dijk e Mané, li ha presi dal Southampton, sì. Ecco, quindi insomma già questo ti fa capire l'occhio lungo. E Sarri, secondo me, ne abbiamo avuto la prova in questa stagione, Sarri ha capito che fino a quando, io ho detto Cristiano Ronaldo, se tu vai a vedere come hanno vinto Real Madrid di Ancelotti, Real Madrid di Zidane, che sono le più grandi vittorie, ma lo stesso Real Madrid di Mourinho che vinse un campionato con Ronaldo, più o meno giocavano tutti quanti allo stesso modo, insomma. Cioè, carta bianca a Ronaldo, sì. E il resto della squadra si adegua a quello che può fare questo fuoriclasse assoluto. Questo non è il calcio di Sarri, però giustamente Sarri ha 60 anni, 61, quanti ne ha, avuto l'occasione di allenare la Juventus, l'ha colta al volo. In questa stagione io trovo che lui abbia inserito qualche elemento del suo calcio, ma fino a dove si arrivava a lambire la zona di competenza di Cristiano Ronaldo. Una volta che tu arrivi in quella zona di competenza, fai quello che vuole Cristiano Ronaldo, perché è una figura troppo pesante. Troppo importante. Certo. Se lui sarà così, perché devi vincere la Juventus, ma la Juventus come da qualsiasi altra parte, non è che c'è un club nel quale devi giocare bene, tu devi vincere, poi io continuo a reputare che se tu giochi bene hai più possibilità. Cioè, di vincere che non si giochi male. Sì, poi vediamo, intanto invito anche gli ascoltatori 800 24 00 24 se vogliono intervenire e dire la loro. Resta da vedere però se durerà più Sarri o più Ronaldo alla Juventus, perché alla Juventus, ti ricordi Andrea Agnelli quando è venuto qui l'ha ribadito, la Juventus vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, quindi il tempo te lo conquisti e le conferme te le conquisti, esatto, passando attraverso le vittorie. Che è quello che ho scritto questa mattina, cioè esatto. Che Sarri deve guadagnare tempo vincendo, ovviamente mi sto riferendo al campionato, se poi arrivasse anche alla Champions sarebbe trionfale, ma vincendo, e in questo momento finché c'è Ronaldo lui si deve adeguare alla presenza di questo grande campione. Sì, però attenzione, nel momento in cui il club prende Kulusevski, gli ha preso De Ligt, gli ha preso Arthur, questi sono giocatori per fare il gioco di Sarri, Sì, sì. No, che ecco, testimoniano quindi il fatto che la Juventus ha voglia di creare una squadra apposta per Sarri, perché questi sono allenatori per cui, a cui devi cucire addosso la squadra, no? Esatto, i movimenti di mercato che sta a differenza dell'anno scorso, quest'anno i movimenti di mercato mi sembrano ispirati alla voglia di dare a Sarri i giocatori di cui ha bisogno per il suo calcio. Dopodiché è tutto un gioco di aggiustamenti, perché, come ha detto appunto Agnelli, la Juve deve vincere, basta. Sì. Però se Sarri vincerà il campionato, il fatto che di averlo fatto con una formazione e con un tipo di gioco più allegriano, se vogliamo, non gli verrà imputato. Certo, no, non gli verrà imputato il primo anno, poi se continuerà a ottenere gli stessi risultati, però insomma vediamo, Ronaldo c'ha 35 anni, giocherà ancora un anno la Juventus, due, in base al suo contratto. È chiaro che nel frattempo tu devi provare a costruire una squadra che il giorno in cui Ronaldo va via non ci saranno, a livello di competitività non ci saranno salti all'indietro. Sì, mi ha colpito sempre in tema di allenatori il dopo partita, tu c'eri, eri a Sky di Cagliari, sì. Torino, mi ha colpito l'intervento di Zenga a proposito degli allenatori, quando ha detto: in questo momento, in questa fase, in questa situazione particolare, in questa strana estate, l'allenatore ha un peso specifico molto maggiore nelle partite, deve essere molto più partecipe, molto più pronto a cambiare la partita, a cambiare dentro una partita che cambia in continuazione rapidamente. Molto vero, e naturalmente una parte della spiegazione di questo assunto di Zenga sono le 5 sostituzioni che stanno cominciando. Ieri mi pare 10 gol dalla panchina, ecco, le istituzioni stanno cominciando ad avere un peso e un effetto molto forte sul campionato. Poi si sta giocando in un periodo dedicato solitamente a mondiali ed europei, uh-huh. E quante ne abbiamo viste, quante ne ricordiamo a mondiali europei di sostituzioni che hanno cambiato il corso o di una partita o addirittura di un mondiale. Ecco, perché naturalmente quando la situazione è più estrema, e anche le situazioni ambientali, giocando a più di 30 gradi, diventano estreme, ecco, la capacità, sì, di individuare quello che non è ancora in riserva ma sta per arrivarci e sostituirlo in tempo, prima che magari causa annebbiamento da fatica, combini la sciocchezza che ti costa la partita, ecco, è una dote del bravo allenatore. Mi sembra che stiano ancora comunque studiando da allenatori di basket, quelli del calcio, perché con le 5 sostituzioni all'inizio ne prendevano poche, adesso pian piano stanno incominciando ad incidere in maniera pesante sulle partite. Beh, pensa a Muriel ieri. Appunto. Muriel l'ha vinta ieri. Da dire che l'Atalanta do coi coi, lì. Sì, esatto. Esatto, poi vuol dire, anche è venuto fuori anche insomma di nostro, ma che era stato un po' nella prima fase della stagione, era l'acquisto in fase di scolarizzazione. Adesso se tu mi chiedi chi è il miglior tiratore da tre punti del nostro campionato, io me la gioco tra Nainggolan e Malinowski, sono due tiratori pazzeschi. Con Muriel a fare i piazzati. Con Muriel a fare i piazzati. È quello che ha tirato il volo, il gol del 3-1. No, ma stiamo vedendo. No, vabbè, pazzesco. Lo sai a chi ho pensato in quel momento? A uno dei miei tiratori. Anche tu sei stagionato, non sei un ragazzino, quindi magari te lo ricordi. Rivellino. Come no. Rivellino aveva quel tipo di calcio, che era una roba... Era balistica allo stato puro. Sì, sì, balistica allo stato puro. Poca velocità, però quando metteva la palla davanti al sinistro. Senti una cosa, a proposito di questo, vediamo un calcio molto tecnico, tanti gol bellissimi, ma anche tanti errori in alcuni casi da scuola elementare proprio. Guarda, anche questo è un dato. Mio amico Costa Curta, non c'è situazione, così guardiamo insieme le partite, ovviamente, nelle quali non dica: ma sai che se io mi allenassi un po' tornerei a fare la mia figura. Ha ragione, nel senso che il mestiere del difensore è stato evidentemente sottostimato in questi ultimi, sì, 20 anni. A livello, ci sono tutta una serie di posizioni, ma anche dai giocatori più bravi, più esperti. Cioè il modo in cui Bruno Alves ieri lascia solo bastoni cioè, Moses è bravo a fare un tempo, però c'è da Bruno Alves è un signor difensore, è stato un signor difensore, continua a essere molto bravo, non me l'aspetto che perda in quel modo bastoni, che ma anche gli attaccanti comunque abbiamo visto cose che voi umani anche sul piano dei gol sbagliati, mi viene in mente così per ragioni temporali Dzeko di ieri da solo davanti alla porta del Milan che peraltro insomma vogliamo dargli prima o poi un qualche merito a Storia. Assolutamente il Milan io lo metto in questo momento subito dietro alla ripartenza dell'Atalanta, perché è partito bene, ha battuto il Lecce con grande serenità proprio e ieri per la prima volta ha battuto una squadra che stava avanti in classifica. Oltretutto tutto questo lo sta facendo senza Ibrahimovic, che a un certo punto quando è arrivato Ibrahimovic si è detto bene, adesso c'hanno il totem farà qualcosa. Totem è stato molto importante per restituire un po' di autostima al gruppo, però adesso la squadra sta funzionando anche senza Ibra. E se tu vai a contare i punti fermi buoni per la prossima stagione, cominciano a essere più d'uno, perché Donnarumma naturalmente, Theo Hernandez, io sono entusiasta di lui, Romagnoli comunque è un buon difensore centrale, Bennasser sì, esiste di meglio, però esiste soprattutto di peggio, quindi Bennasser è un giocatore che va bene, che ha Rebic, se è questo qua, è Mertens. Rebic assolutamente. Bisogna vedere però. Rebic assolutamente. Beh, ma insomma, le cose le fa, vuol dire che le sa fare Rebic. Poi leggevo che di questo interesse per Jovic, che si ricreerebbe la coppia d'attacco dell'Eintracht, sì, che ha fatto molto bene, è chiaro, adesso deve prendere la grande punta, non deve sbagliare la grande punta. Sì, poi soprattutto secondo me servono comunque dei capi branco, perché con una banda di ragazzini sebbene di grande talento secondo me fai fatica se la prospettiva è quella dell'obbligo di centrare la Champions League, quindi ci vuole anche in questo equilibrio. Questa è una cosa che non mi convince nei piani. È vero, il problema è che centrare la Champions League è diventato un must, un obiettivo assoluto per tante squadre, troppe probabilmente. Sì, sì. Cioè questo, ormai la gerarchia, per esempio, c'è una squadra che a me fa impazzire per possibilità di talento, che è la Fiorentina. Secondo me la Fiorentina c'ha dentro un talento, cioè sprigiona talento veramente da tutte le parti, talento anche giovane. Sono tutti dei giocatori, ovviamente non mi riferisco al mitico Ribéry, ma sono tutti dei giocatori che devono ancora trovare la situazione per esprimere il loro potenziale. Sì, beh, Castrovilli, Vlahovic, insomma. Prima o poi 20 gol li fa. E prima o poi. Ora di cominciare. Ora di cominciare. È ora di cominciare. Ora di cominciare. Hai citato Castrovilli e Vlahovic, sono bravissimi. Sì, ci vogliono, rimango convinto che in una squadra così ci vogliono due o tre Ribéry, hai capito? L'idea Thiago Silva è un'idea molto intelligente. Sì, esatto, per dietro. Loro hanno comprato Amrabat. Certo. No, Amrabat è uno delle... Kouamé è un talento sopraffino. Non hanno ancora potuto farlo giocare perché è infortunato. Però cioè, la Fiorentina è una squadra... Io la Fiorentina l'anno prossimo con tutti questi... la Champions League la chiedo alla Fiorentina. Ah sì, sì, sì, sì. Per me ha questa potenzialità. Sì, è anche società che anche una società che ha le idee chiare, le ambizioni giuste, quindi anche quello è importante. Paolino, grazie mille, ti abbraccio, un abbraccio forte. A tutti. Grazie davvero Paolo. Allora, prima di fermarci, poi già vi dico, dopo la borsa mescoliamo come abbiamo fatto peraltro anche con Paolo Condò il basket con il calcio, con l'allenatore campione d'Italia. Parleremo di mercato, queste sono anticipazioni. Intanto Stefano da Rimini, 800240024, numero verde, WhatsApp vocali 349-238-6666. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei. No, volevo fare una domanda molto molto semplice. Da quando è ripartito il calcio, sin dalla Coppa Italia, la Juventus continua a giocare ogni 4 giorni, mentre tutte le sue concorrenti, spesso, la Lazio, il Napoli o l'Inter, giocano ogni 3. Continuerà a giocare ogni 4 giorni anche questa settimana e anche la settimana dopo. Mi sembra strano, insomma, è anche abbastanza, diciamo così, perché giocare con questi caldi, un giorno in più di recupero, vuol dire, secondo me, tantissimo, e alla Juventus se lo concedono sempre. Sì, è anche la squadra che ha giocato di più, merito suo se è arrivata in finale di Coppa Italia, perché per esempio la Lazio l'abbiamo vista due volte due da quando era ferma dal 29 di febbraio. Io credo siano, insomma, giochi di calendario, settimana dura sette giorni, si gioca tutte le sere, quindi diventa abbastanza fatale se giochi il venerdì come ha fatto la Juve, che peraltro aveva giocato a stretto giro di posta, quindi due giorni prima se non ricordo male, poi diventa fatale fare questi giri. Certamente avere, contano anche i minuti di recupero tra una partita e l'altra in queste condizioni. Però non lo vedo così determinante questo aspetto, Stefano. Allora, fermiamoci un attimo per la borsa, torniamo. Comunque, solo all'Inter potevamo mettere in discussione Antonio Conte, solo noi. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Tutti convocati. Carlo, buongiorno. Senti, io non vorrei che capiti che poi c'è Mamuz che andò a Ravam. Già abbiamo perso Gattuso e non vorrei che capita la stessa cosa con Ring. Prima quello non è buono, poi adesso Gattuso è buono. Adesso Pioli non è buono e poi Pioli si rivelerà un allenatore buono. A un certo livello è difficile aspettare. Però è vero che l'acquisto di Ronaldo sembrava a vincere subito. Quello di Sarri a costruire nel tempo. Probabilmente tra le due filosofie quest'estate bisognerebbe decidere. Vostri WhatsApp vocali 349-238-6666. Abbiamo pescato per Luigi Pardo. Ciao Pier. Sì, scusandomi moltissimo, lo dico proprio. Eccolo qua. No, perché ero in un posto dove prendeva sempre e oggi non prendeva. Mezza isola e sono fortunato a star qui, però la magia dei telefoni. Allora, il primo di questi due messaggi che ho fatto sentire di fatto è il mio radio tweet, perché tra le notizie più interessanti di questa domenica c'è secondo me la consacrazione ulteriore o comunque l'altro piccolo gradino nel processo di crescita di due tipi molto diversi a vedervi, che sono Gattuso e Pioli, con il Milan come denominatore comune. Sì, e secondo me però con un elemento comune, che è la grande dignità, il fatto di costruire passo dopo passo il proprio lavoro. Io adesso non so dirti onestamente se Pioli sia il tipo giusto per il Milan del futuro, se le decisioni sono già state prese, che tipo di progetti ci sono, però ecco, insomma, fare attenzione perché poi alla fine ci sono delle volte degli allenatori che ancora non hanno costruito e non hanno ancora l'allure, il fascino, il carisma di quelli assolutamente conclamati, però poi rischi di rimpiangere. Ecco, sì, questo certo. È un po' la costanza. Certo, guarda, sei stato fortunato anche perché abbiamo pescato oltre a te anche Walter De Raffaele. Ciao Walter. Ciao Carlo, ciao Pier. Ciao Coach. Ciao. No, perché voglio coinvolgere in alcuni discorsi tra calcio e basket, che ho accennato prima con Paolo Condò, e dai tempi della maturità che non facevi vacanze così lunghe, mio caro Walter. Madonna, veramente, guarda, non se ne può più. intanto ti trovi lì con Milano che compra, poi si tornerà a giocare e Venezia comincerà a vincere. Speriamo, dai. No, dai, battute a parte, mi sembra che anche quest'anno Milano stia facendo le cose giustamente importanti con acquisti di grande qualità, ci metterei poi anche Bologna. Sì, noi sì. Abbiamo come al solito puntato sulla nostra filosofia, che è quella di dare continuità a un gruppo che secondo me è forse un ultimo ballo, visto che arriviamo da un recente film di grandissimo interesse di Michael Jordan, forse un ultimo ballo lo può ancora fare con qualche inserimento, ma abbiamo preferito puntare sulla continuità, perché comunque ci siamo interrotti sul più bello. Tra l'altro non vale la pena ricordare per gli smemorati che siete detentori dell'unico trofeo assegnato, cioè la Coppa Italia, per quello che ti dico, poi arriva Venezia e vince. No, ma comunque, esatto, comunque i campioni di tutto siete. Sì, io ti dico Walter, che quindi se vuoi prendertela con lui, fallo, che Pardo ha avuto un ruolo importante nell'arrivo di Datome nel ritorno di Datome in Italia, perché è amico suo. Ecco, malissimo Pier, malissimo. Ora, visto, io ti scrivevo su Instagram e te non mi rispondi mai, adesso non ti scriverò neanche più, così andrò anche di aspettare la risposta. Assumiti le tue responsabilità, Pardo, dai, su. Io gli ho detto una cosa generica, torna da noi che ci vediamo, poi insomma, il resto non lo so. Però insomma, credo che chiunque avesse la possibilità di prendere un giocatore come Gigi, insomma, l'occasione non se la sarebbe fatta scappare. Grande giocatore, è un bene per comunque che questi giocatori tornino in Italia. Io sono sempre per i grandi campioni e per dare interesse al nostro campionato, quindi ben vengano, e chi giustamente li può portare è giusto che lo faccia. Sì. Invece avrei notato anche tu, Pierre, ne accennavo, dicevo prima con Paolo Condò, come gli allenatori di calcio si stiano molto baschettizzando. L'ha sottolineato Zenga l'altro giorno, però è una caratteristica che sembra piuttosto chiara in questo momento strano, Pierluigi. Allora, guarda, due cose da dire. Una sul fatto da Milano che spende, eccetera. È chiaro che chi spende tanto, chi ha un budget superiore agli altri, magari rischia anche di stare antipatico, e ci sta il meccanismo poi di avere simpatie per gli underdogs, perché è bello che i gruppi e il lavoro riesca in qualche modo a colmare il gap che c'è con chi ha più budget. Detto questo, sono anche poi quelli che, cioè tutti quelli che comunque spendono soldi nello sport e portano investimenti nello sport, meritano un applauso, nel senso che anzi dovrebbero essere stimolo agli altri, ecco, dovrebbero essere stimolo agli altri per trovarne altri come loro che si mettano a investire. Ma perché in realtà è tutta invidia. È tutta invidia. Esatto. Alla fine. Invece sulla basketizzazione, ma guarda, secondo me questo è un ragionamento, se vuoi, filosofico di larga scala che dura tanti anni. Cioè, gli sport americani, per capirci, quelli più a percentuale, quelli che sono più legati al concetto delle statistiche, al concetto dell'iperprofessionalizzazione, sappiamo anche il football americano, sport che hanno addirittura gli allenatori della fase difensiva, gli allenatori della fase offensiva, sono diciamo più evoluti da questo punto di vista. Il calcio, ed è bellissimo anche per questo, vive di una sua artigianalità, però se tu fai un paragone nel tempo, il livello di specializzazione degli ultimi 30 anni è cresciuto tantissimo. Io mi ricordo al Chelsea a metà degli anni 90 che non c'era ancora il preparatore atletico, furono proprio gli italiani a portare il preparatore atletico e i dietologi, e parliamo di 25 anni fa, cioè non parliamo di 100 anni fa. Sì, sì, e chiaro. Quindi insomma, secondo me che ci sia un apporto sempre più specialistico. Ma poi sai, vedi, in questo momento, l'altro giorno Zenga lo sottolineava, le partite ti cambiano davanti agli occhi in maniera repentina, e tu sei molto più, allenatore di calcio, sei molto più coinvolto, devi essere molto più sveglio a leggerle improvvisamente, proprio come si fa nel basket. E poi anche la storia dei cinque cambi, puoi rivoltare la squadra come un guanto, perché puoi cambiare metà dei giocatori di movimento. Quindi ho notato questo, non so se anche tu, Walter, l'hai notato. Guarda, con Walter ne avevamo parlato di questo, credo che sia a Venezia a allenare la squadra del Venezia, e abbiamo avuto occasione proprio di parlarne, anche lui è venuto a vedere un appassionato di basket e ne parlavamo proprio di questa capacità che comunque nel basket è accentuata proprio per le regole di dover leggere la partita e incidere comunque con la tattica oppure anche con la semplice sostituzione sui vari quintetti nei vari momenti, perché poi da noi si spacca il secondo, cosa che appunto, nel calcio non si fa. La cosa che per esempio mi confrontavo anche con Max poco tempo fa qui a Livorno era per esempio su quanto si potrebbe fare sul discorso dei calci piazzati da fermo, su quanto si potrebbe lavorare sui blocchi. Ci sono dei punti di contatto, e naturalmente l'avere uno specializzato su queste fasi nel calcio, avendo dei tempi un po' più dilatati, secondo me ci si potrebbe lavorare un po'. Poi è naturale che la parte di analisi offensiva o difensiva poi lascia lo spazio al talento dei singoli, al talento anche dell'allenatore nel leggere le situazioni, perché poi tante volte è l'istinto che ti fa fare una determinata cosa in pochissimo tempo. Ecco, con le cinque sostituzioni certamente l'allenatore, se prima incideva una certa percentuale, adesso può incidere una percentuale maggiore, quello sì. Quello sì. Perché la grande diversità è che nel basket ovviamente tu hai, nel basket, nel football americano, in tanti sport, hai una ripetizione continua di situazioni. Quindi in una partita di basket hai 50-60 fasi offensive, 50-60 fasi difensive nella stessa partita. Alcune volte c'è il contropiede, ma altre volte c'è la difesa schierata. Quindi hai diciamo, la necessità, l'esigenza di dover in qualche modo formattare diversi tipi di giochi offensivi. Nel calcio questo è un po' meno vero, nel senso comunque in 90 minuti e più di partita hai delle situazioni. Tante situazioni, però il denominatore comune in questo caso è la capacità di lettura rapida delle situazioni che in questo momento... con e poi calci piazzati. Ecco, calci piazzati, scusami, invece hai esattamente la riproduzione di un modello che è molto simile a quello degli sport americani, perché hai veramente la possibilità di piazzarne tre di là, due di là, quello che fa il blocco sull'altro, quello che sta dietro. Quindi, d'altra parte del fatto che il basket aveva mutuato i blocchi, se ne parla dai primi anni 90. A proposito dei primi anni 90, di salutare Walter De Raffaele, tutte le volte che incontro mio amico Cosdan Peterson, a cui voglio un mondo di bene, lo scherzo sul fatto che lo volevano ad allenare il Milan. Tu ad allenare un'altra squadra, una squadra di calcio, no? Ma guarda, io sono sempre affascinato dalle cose diverse, ti ripeto, con tutti. Non a caso rompo le scatole a tutti gli allenatori di calcio, perché resto persuaso che ci si potrebbe avere una mutualità su alcune cose. Poi, come al solito, sai, ognuno è giusto che provi a fare un po' meglio quello che riesce a fare. Poi il resto, naturalmente, se ci fosse necessità io alleno tutto, perché alla fine vado da tutte le parti. Però ecco, mi piacerebbe molto, infatti con Max ci siamo ripromessi di trovarci, di parlarne non appena ci sarà la possibilità, perché sono due mondi distanti, ma su tante cose, su alcune cose, non tante no, su alcune cose credo che ci possano essere dei punti di contatto. Però insomma, guarda caso, l'ultima volta che ho visto Allegri di persona era a una partita di Eurolega dell'Olimpia. Stai attento. Ciao Cosh, grazie. Ciao, grazie, buona estate. Ciao Pier, ciao. Traffico, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. L'interesse dell'Inter per Hakimi, quanto manca per arrivare alla firma? Non nascondo che siamo in una fase di trattativa avanzata. L'obiettivo della società, e soprattutto per volontà anche della famiglia Zanchi, della nostra proprietà, è quello di continuare a fare investimenti nell'area sportiva, quindi nell'acquisizione di giocatori importanti, soprattutto cogliendo le opportunità che il mercato offre. Pierluigi, secondo te potevamo farci mancare in questi giorni la molestia settimanale a Luca Marchetti? No, anzi, ieri sono andato a un gruppo di ragazzi di Terni e la prima cosa che mi hanno chiesto è: salutaci Marchetti quando lo senti in radio. Una cosa del genere, chiedo scusa per l'accento che non è perfetto, io approfitto subito e quindi mi faccio portatore. Ciao Luca. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao, saluta anche tu gli amici di Pier di Terni, per favore. Non so che siano, ma li saluto caramente. Se sono amici di Pier, sono anche amici miei. Paraculo che non sei di Terni ma Pozza. Senti, che strano mercato, eh? Non ci capisco più niente, ti dico la verità, Luca. Visite, firme, presentazioni, poi non stanno lì ma tornano indietro. Io non riesco tanto ad abituare. L'altro giorno pensavo, nella mia ingenuità e stupidità ben chiara, ma adesso, cioè, arriva Arthur, fa le firme, firma il contratto, viene presentato, ma poi che fa? Sta qua? No, torna là. No. E Pjanic va là, ma poi torna qua. Sì, esattamente così. È un regalo, fra virgolette, del coronavirus, perché in Italia soprattutto è possibile far firmare i giocatori depositando un contratto preliminare, quindi tecnicamente il mercato è aperto, ma non c'è la finestra di mercato, il paradosso è questo. E quindi il giocatore tu lo compri per settembre. Sì, con tutta la tiritera dell'incrociata delle firme e delle visite. Poi... Sì, perché è un contratto vero e proprio quello che firma, non è che appunto, è una scrittura prestata. Appunto. È un contratto sul modulo, quindi vale come quello che poi verrà depositato concretamente al primo di settembre, ma in realtà viene depositato adesso con valenza primo settembre. Arriveremo, vedrai Pierluigi, agli scambi stile NBA, dove uno oggi gioca con la Juve, beh, domani chi gioca il classico. Lo sa. Sì. FIFA succede che a gennaio ma non è una cosa così astrusa dal punto di vista, diciamo, giuridico. È chiaro che il calcio aveva la sua ritualità e ci piaceva, perché, per carità, anche perché poi ci sono delle variabili legate all'andamento della stagione, legate agli infortuni, alle squalifiche, quindi voglio dire, c'è tutta una serie di elementi da tenere in considerazione, però dice giustamente Luca, è un regalo del coronavirus, cioè è una delle mille cose anormali di questo periodo. Sì, ma non è finita qui, ce n'è un'altra stranissima, il caso come quello di Cavani, che avrebbe ancora teoricamente una Champions da giocare, però dice no, non mi rinnovate, io non vengo al campetto. E poi quella del Manchester United, Luca, che dice sì. A Inter e Roma, va bene, Sanchez da una parte, Smalling dall'altra, ve li posso sì. pure lasciare fino alla fine del campionato, però non per le coppe, perché potreste essere i miei competitors. Non solo per quello, perché il problema riguarda anche per esempio Moses con il Chelsea, per cui l'Inter sta continuando a trattare in queste ultime ore. Di fatto è un problema anche economico, se vuoi, perché in Italia i prestiti sono stati di fatto normati con una forte indicazione da parte della federazione, per cui i soldi che dovevi prendere in questa stagione sportiva te li do in 14 mesi, quelli della prossima stagione sportiva te li do in 10. Vallo a spiegare al Manchester United che a Sanchez 15 milioni di euro all'anno, che li dovrebbe dare in 10 mesi, e gli dice no, gioca con te per 2 mesi, taglieli tu in questi 2 mesi qua. Fondamentalmente il problema è molto più economico che potenzialmente conflittuale per l'Europa League, uguale per Smalling, E comunque sappiamo che in Inghilterra in qualche caso ci sono state clausole per parecchi anni, diciamo, anche basate sulla moral suasion, perché i giocatori che venivano dati in prestito poi non giocavano contro l'avversaria diretta. Quindi insomma, non è, anche qui stiamo sperimentando dei territori sconosciuti, però una logica c'è. Sì. C'è una logica, e ti dico che qualche problema ancora non risolto c'è anche fra squadre italiane. Perché certo. Per esempio Perin e Romero, che sono di proprietà della Juventus, che giocano adesso nel Genoa, devono ancora l'ok definitivo per rimanere al Genoa. Stessa cosa per Pellegrini. C'è ancora appeso Barak, che gioca nel Lecce ma è di proprietà dell'Udinese. Quindi queste ultime 24 ore che serviranno per firmare il famoso modulino, non è detto che tutti i giocatori poi rimangano lì. Il che è abbastanza pazzesco. Senti, intanto con Arthur ci siamo torti di dosso un tormentone che cominciava a diventare fastidioso. Non si sente più parlare di Lukaku al Barcellona, perché se tutto... Di Lautaro. Di Lautaro. Al Barcellona è tutto finito? No, è tutto rimandato. Intanto perché l'Inter ha alzato un bel muro dicendo che se il Barcellona lo vuole deve pagare la clausola. E il Barcellona ora la clausola non può pagarla per tanti motivi, non ultimo, ma anzi forse il principale, è questa sorta, mettiamola giù male ma tanto per capirci, di fair play finanziario spagnolo che non permette alle squadre spagnole di spendere tutto quello che vorrebbero se non all'interno di alcuni parametri. E questo rallenta molto l'operazione, perché poi nel frattempo magari il Barcellona le risorse per prendere Lautaro ce le ha, ma se ne parla di fatto nel vero mercato, quindi a fine agosto. Perlomeno questa è la nostra sensazione, considerando che tutte le previsioni che erano state fatte da fior di economisti ci dicevano che sarebbero state meno operazioni e a costi inferiori. Abbiamo già visto Icardi, Arthur Pjanic, Hakimi all'Inter, mi pare che sulle previsioni non siamo andati benissimo. Senti, nel salutarti ti faccio notare, come scrive un comune amico di cui non ti dico il nome, che ti ricordo che la Ternana ha perso la Coppa Italia di Serie C. Sì. Ecco, sì. Favore della Juventus Under 23. Io con grande simpatia ti saluto con questo memo. Ti ringrazio, lo sapevo già, ho pure visto la partita, e quindi ero cosciente. I Freak Brothers, che dicono i Freak Brothers? Diciamo che non sono sereni in questo momento. Però al di là delle battute, devo dirti che è la vittoria di un trofeo per una squadra, l'unica squadra B in Italia, io credo che sia abbia un significato molto importante, perché il progetto fatto dalla Juventus sulla propria squadra B è un progetto che funziona, perché non solo crea giocatori ma riesce anche a vincere qualcosa. Adesso sono in lotta per i playoff e volendo possono anche salire in Serie B. Che schifo non fa. Grazie Luca, un abbraccio a voi, ciao Pier, saluto anche te. Ciao. Ci sentiamo domani con te, con tutti voi. Io ringrazio di nuovo Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato in regia, Claudio Schiattone e Lorenzo Nespoli in redazione assistenza. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.